scusa Giovanni. Morning, that there, 7-1. Yeah, man, that's good, it's cat. Yeah, you heard, no way, back quiet. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, hola, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, prove tecniche di trasmissione. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, prove tecniche di trasmissione. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh oh oh, 1, 2, 3, prova. Lillo, Lillo.